è triste doverti lasciare, ridarti le cose che andranno ad un'altra. Mi lasci soltanto i ricordi dei giorni trascorsi, soltanto i ricordi. Stasera, persino la luna di sempre, chissà dove è andata. La spiaggia mi sembra più vuota, mi sembra più grigia, e questo perché è triste doverti lasciare e darti quel mondo che un giorno mi hai dato. Quel mondo che mai sembrava dovesse avere mai fine. L'estate si perde nel cielo, così come il bene che io ti ho voluto. Mi resta soltanto un autunno e l'ultimo giorno che passo con te. È giunto il momento di darci l'addio, ma non mi scordare. È triste doverti lasciare, è giunto.